Il cammino di Gigi D'Agostino non è un programma molto preciso. Molto preciso. Ma è fatto da un cuore molto preciso. Roba di tango. Roba di casche. Quelli porno, mi alzo in piedi, mi corro intorno, mi sciacquo la faccia, sono, mi addormo, oh yeah. Corro intorno, mi sciacquo la faccia, se no mi addormo. Mi vesto in fretta, con la sciarpetta, incrocio il vicino, ma non gli do retta. Il mio pensiero sta già creando, e la mia mente sta già spaziando. Perché il tuo giorno non è il tuo forno, se scegli bene. Pieno di strade, una maggiore conoscenza, una maggiore scienza. Una maggiore conoscenza, una maggiore scienza. L'emozione ti si pone, se non la vivi sei un... Sento la radio su FM2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su FM2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accento la radio su FM2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su FM2O. D'Agostino. La sua musica prende vita. Prende vita. Componenti misteriosi. componenti di misteri e musica. Devo fare un annuncino e questo fine settimana e quindi venerdì dunque no sa sabato primo no aspetta ah sì sabato 1 aprile e domenica 2 aprile suonerò in Sardegna e adesso in questo momento non mi ricordo dove perché ho perso i fogli, però potete, se avete voglia, se vi dovesse interessare e volete saperne di più, www.gigidag.com oppure www.gigidagostino.com e lì entrate, trovate le date del tour e tutti gli spostamenti vari e ci vediamo in Sardegna, ciao. Fratello, di chi è questa canzone? Lento Violento Man. Tito? Gigi's Love. Bello, bello. Oh, ma sto pezzo. Dai. Cioè, ti trovi con le mani al cielo e non sai neanche perché. Ce lo sai, però cerchi di andare oltre a quello che già sai. Località Airasca, provincia di Torino. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Dai, dai, ginnastica mentale. Fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico. Ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade e alle persone.

C'è Gigi D'Agostino, fermati e ascolta. Lento, violento. titolo? Fresca Mosca. Artista? Lento Violento Man. Aprile 2006. Discoteca Privilege. D'Agostino. Bello, bello, bello, bello. Mi piace, cos'è? Ragazzi, la sana del suono. Mi con i mischi sonori, sì sì sì sì. programma col cuore di un bambino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Stai ascoltando? Hold on, Love Transistor. Destiny of love, walking hand in hand.

anziano ci porta lontano. Lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buongiorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è... Sono Gigi, l'ho già detto, ma la sigla va a sfumare perché devo respirare.